Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quel giorno Fantozzi ebbe finalmente dai suoi superiori un incarico di fiducia e di grande soddisfazione. Soldato, tu che sei un volontario. Beh. Corri ad Atene e di che la battaglia di Maratona è vinta. Scusi, ma sono 42 chilometri. E 195 metri. Ah, beh, e allora è differente. Vai. Ecco, porto notizie da Maratona. Che è successo? Dove? A Maratona, forza. Oh, dunque, ecco, non me lo ricordo più. Buongiorno da Nicoletta. Si corre presi da mille impegni, si corre spesso per dovere, ma oggi parleremo di chi corre per piacere, per il proprio benessere. La voglia di correre a volte nasce all'improvviso e, se la secondi, può cambiarti la vita, in meglio naturalmente, ma a patto che vengano rispettate alcune semplici regole. Una posso darvela io: non strafate. In studio con me qua il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese. Buongiorno dottor Confalonieri. Buongiorno, ben ritrovati. Grande tutti. Stagione di maratona. Esatto, parliamo di corsa proprio nel momento in cui c'è stato Milano e tante altre maratone lo scorso weekend, ce ne sarà il prossimo weekend. È il momento giusto per riparlare di corsa, in particolare di maratona. Ma la corsa è naturalmente esercizio, disciplina, rigore, equilibrio. In studio con me finalmente è arrivata anche Tita Ietoni. Ciao Tite. Ciao, namaskar. Anche tu sei una maratoneta, o meglio una yoga runner, o ancora una trail runner. Insomma, chi sei, Tite? Hai mescolato la corsa, lo yoga, quindi respirazione, ma non ti accontenti di fare le maratone? A te piace anche la maratona, metterti alla prova per sveltirmi, ma la mia vera, per dedicarmi meglio alla mia vera passione, che sono le corse in natura, green, si parla tanto di green, di eco. Ecco, la corsa in natura vuol dire in qualsiasi stato naturale. C'è chi predilige il deserto, io forse anche perché sei per montagnina. Le mie origini prediligo la montagna. E in particolare correre fino a perdermi, non il passo, non perdere il passo, non perdere la testa, ma perdermi nella natura, fondermi con essa in montagna. Quindi più la corsa è lunga lassù è più è interessante. 80 ultra trail 800 24 00 24. Parleremo di corsa, parleremo di allenamento, ma anche di tempi, perché quando si parla di maratona non si può fare a meno di parlare anche di obiettivi cronometrici da raggiungere. Intanto qua accanto a me c'è Marco Loconte, collega del Sole. Ciao Marco. Ciao. Maratoneta, autore di Stregati dalla corsa, edito dal gruppo 24 ore. Che tempi hai, Marco? Perché pessimi, sono un maratoneta inadempiente, però perché a me piace veramente correre in sé. Cioè, francamente non sono un grande amante dell'obiettivo. Ci sono molti modi di correre e di vivere la corsa. Io sono interpreto, perché è un po' la mia natura, un modo un po' anarchico. A me piace correre e corro. Francamente adesso un po' che non prendo i tempi. Per un periodo mi sono messo lì, ho recuperato un po' di tempistica, e devo dire che poi sarà un po' l'età che avanza, ma non vedevo grandi risultati in miglioramento. Poi, per cui ho deciso di occuparmi del piacere in sé di correre. Altri invece dalla cura del tempo realizzato riescono a trarre, come dire, motivo di stimolo della corsa. Ma quindi forse possiamo individuare due profili di runner, e vorrei chiedere ai nostri ascoltatori a quale dei due appartengono. Correte anche per fare il tempo, si dice così, sì. Oppure correte proprio, come ci raccontava Marco Loconte, per il piacere di correre. 800 24 00 24 e soprattutto che cosa vi ha stregato dalla corsa e che cosa avete imparato dalla corsa, dalla maratona. Perché Marco, nel tuo libro racconti, molti manager sono appassionati proprio della corsa, e dall'allenamento hanno trovato evidentemente degli stimoli, il passo giusto anche per affrontare lo stress quotidiano, per la gestione di alcuni problemi. Quindi è un allenamento che appare fisico, ma è poi è sicuramente una buona palestra a livello mentale. Molto, molto eccitante, mi verrebbe da dire, dal punto di vista mentale. La corsa è un eccitante mentale straordinario. Tu dicevi manager, e infatti nella copertina poi alla fine si è puntato sui manager, ma tutti coloro i quali lavorano traggono grande giovamento dal mentale, dal correre, perché per una serie di meccanismi chimici che vengono innescati dalla corsa, l'attività cerebrale viene esaltata e soprattutto chi fa un lavoro di carattere intellettuale trova molti stimoli. Io ho intervistato per esempio Paolo Garimberti, che attualmente è presidente della RAI, ma è stato, lo è insomma, un giornalista, un collega da decenni, che racconta come alcuni articoli, alcune idee per articoli, l'attacco di un pezzo, alcune esemplificazioni siano proprio venuti correndo. E anche altri, insomma, per esempio Sassoli De Bianchi, che abbiamo avuto ospite l'altro anno quando abbiamo parlato del libro, alla sua uscita qui, lui essendo medico ha forse maggiore consapevolezza di tutti questi meccanismi e della corsa, dell'effetto psicologico interiore della corsa, ci ha parlato in maniera molto diffusa, perché è proprio un viaggio interiore, questa è la cosa anche bella. Ecco, su no? questo vorrei proprio coinvolgere Tite, è un viaggio interiore, tu sei arrivata alla corsa partendo dallo yoga. Sì. Vabbè, sono insegnante certificata Iyengar Yoga, però mi mancava, forse appunto sempre per le mie origini, mi mancava il lato aerobico e insomma l'aria che mi massaggia e spazzola il viso. Quindi a 39 anni ho pensato che fosse arrivato il momento per provare a misurarmi con una distanza classica, la maratona. E quindi mi sono allenata per pochissimo tempo, 3 mesi, con delle tabelle del grande Pizzolato. E, ha fatto le cose per bene, insomma, sì, dottor Gonfalonieri. Non volevo perdere tempo, perché a 39 anni non si può più, bisogna ottimizzarlo. E mi sono ritrovata a capire che in realtà correvo bene, in salute e senza troppi intoppi, e anzi migliorando continuamente grazie allo yoga. Insomma, lo yoga era una sorta di così scatoletta degli attrezzi, proprio, dove tu potevi prendere delle competenze per correre meglio. Ma noi oggi vogliamo dare anche aiuto a chi corre e che vuole pescare, attingere dallo yoga magari, possiamo dire, trucchi, suggerimenti, respirazioni per potenziare il, non solamente per arrivare a fare un tempo buono, ma anche per vivere bene la corsa. Dottor Gonfalonieri, e poi andiamo a Modena, che c'è Marco che ci aspetta, che intanto salutiamo. Sì, volevo proprio cogliere da queste prime riflessioni uno spunto fondamentale. La corsa è di per sé l'esercizio più anarchico che esiste, così come diceva molto bene Lo Conte prima, nel senso che ci lascia una grande libertà di interpretazione. È molto semplice da fare e quindi gli approcci individuali alla corsa possono essere diversissimi. La si può fare con obiettivi diversi, tempi diversi, fatiche diverse e ritorni anche per ciascuno diversi. Sarebbe molto bello che proprio oggi con i nostri ascoltatori ci confrontassimo sul loro rapporto con la corsa, proprio perché c'è una grande libertà di rapporti. Vediamo che rapporto ha con la corsa Marco, che ci chiama da Modena all'800 24 00 24. Marco, benvenuto. Benvenuti a voi e complimenti intanto per la trasmissione, anche se la frase è retorica. Allora, brevemente, 20 anni che corro, perché avevo smesso di fumare, sempre in aumentare, le spiego, sempre aumentato i tempi della corsa e le uscite. Sono circa un paio d'anni, direi un anno e mezzo, che ho aumentato tantissimo le uscite, perché veramente non riesco a farne a meno, ritornando al discorso rapporto con la corsa psicologico, non riesco proprio a farne a meno, solo che naturalmente ho molto calato i tempi, cioè tempi, percorsi che di solito io copro in 52 minuti, adesso li copro in 58 minuti. È naturale che esco tutti dai giorni. Marco, solamente 6 minuti di differenza, sono tanti? Beh, insomma. No, non si butti giù, dottor Gonfalonieri, no, perché senso, succede questo? No, nel senso che l'esordio è stato perfetto, cioè ci ha detto l'impegno è stato gradualmente crescente nel tempo, che gradualità è una delle parole chiave che ci accompagnano da anni, ed è applicabile. Piuttosto che sono andato a informarmi e è una cosa che si può dire, sta bene, e in italiano è assolutamente accettato. Volevo dirlo a fine trasmissione, poi porterò le fonti, anzi le metteremo magari sulla, su Facebook, sulla pagina Facebook. Ciò detto, dicevo, la gradualità è perfetta. Purtroppo, probabilmente, a un certo punto si è creata una sorta di dipendenza dalla corsa nel nostro ascoltatore, e non è più stato capace di gestire l'impegno in funzione delle risposte che gli dava l'organismo. Quindi è andato probabilmente in quello che si dice sovrallenamento, sovraffaticamento, overtraining, e quindi il suo rendimento si è fortemente ridotto. Da questo punto di vista bisogna stare molto attenti, perché è chiaro che anche la corsa ha degli effetti collaterali che vanno gestiti, e quindi questa dipendenza non deve portarci ad esagerare. Lei ha sperimentato su di te gli effetti negativi della corsa, Marco? Insomma, l'effetto più negativo è la frustrazione, no? Quando non riesci a raggiungere un obiettivo. Però è un passaggio intanto abbastanza frequente, nel senso che quando ti misuri, in particolare con la maratona, con una distanza così importante, non parliamo dell'ultramaratona, dei 100 chilometri che siamo a livelli veramente estremi, però la maratona è molto impegnativa per il fisico, non è che ne puoi fare 10 in un anno, insomma non è che puoi farne tante, poi ci sono anche dei super maratoneti, però insomma è facile scontrarsi con la difficoltà del proprio corpo, e perché non tutti abbiamo la fortuna di avere un corpo d'acciaio, no? Io a 18 anni avevo già fronteggiato le vene varicose da diverso tempo, per cui per esempio un tendine un po' più debole, le ossa che sono un po' meno forti, insomma non è così infrequente, per cui è abbastanza, direi, facile insomma scontrarsi un po' con i limiti, del proprio corpo. Però la cosa bella è saperlo, lo sai, ti può capitare, quando ti capita ti girano le scatole perché ti devi ritirare, devi andare piano, devi rallentare, questo fa parte del gioco, mentalmente questo ti rafforza molto, perché devi, quando lo sai, lo ti capita, lo superi, e questo ti rafforza parecchio. Tite, se lo superi, se no ti frustra molto. Io amo dire che, soprattutto nell'Ultra 3, che è un po' la quintessenza di quello che stiamo dicendo, la crisi fa parte del bagaglio obbligatorio. Prima o poi arriva. In maratona è frequente, ma nell'Ultra 3 è proprio quello che vai cercando, come dice Di Incarnazis. Ma la cosa interessante è avere gli strumenti, e qui lo yoga diventa veramente utilissimo, la famosa cassetta di attrezzi, capire come in fondo poche cose, se le richiami al momento giusto, ti possano far uscire dalla crisi e lì arricchirti veramente, oltre a farti finire. Quindi lo yoga che cosa regala? Chi pratica yoga può respirare meglio? Da uno strumento che è il jolly di tutto quello che stiamo dicendo, che è la capacità, l'abitudine, ripetita Juvent, l'abitudine ad ascoltare il proprio corpo in tutte le situazioni, belle e non belle. Okay? Perché tutto è un continuo cambiamento, un continuo affrontare novità, soprattutto in gara. Quindi ritenere normale arrivare vicino a una crisi, sentirla arrivare, sentire i pensieri cattivi che arrivano, riconoscerli, e quindi essere quello che lo yoga dice, il testimone esterno. Però se non si è allenati a fare questo, non si riesce a improvvisare. Ma noi ci alleneremo oggi. Avete solo da chiedere all'800 24 00 24. Marco da Brescia, Carlo da Milano, Gianluca da Roma. Vorrei anche delle ascoltatrici, delle runner donne, o anche se non fanno le maratone, hanno iniziato magari a correre proprio per sentirsi tante bene. Per prepararsi alla famosa. In America hanno superato gli uomini. Ecco, quindi ragazze, diamoci da fare. Adesso mi farò fare un programmino, correrò anch'io nel parco che ho vicino a casa, poi vi inviterò alla mia prima maratona. Marco, buongiorno. Il dottor Confalonieri non ci crede, ma invece vi stupirò con effetti speciali. Marco, buongiorno. Buongiorno, sono Mario da Brescia. Ah, mi ha detto Marco, mi scusi. Mario. Un saluto a Tite, che ci conosciamo, sono organizzatore della Corri per Brescia. Ieri Tite era con noi. Mario! E devo fare i complimenti perché è bravissima. E ha insegnato qualche esercizio di stretching prima di partire ai concorrenti. Volevo dire, io corro un ultra. La stiamo perdendo, okay. Mario. La facciamo richiamare perché si sente male e vado più vicino perché resto a Milano con Carlo. Carlo. Carlo sono io, sono di Milano anche se adesso mi trovo ad Affi, per cui milanese di nascita ma in giro. Io sono un neo yoga runner, saluto la mia maestra Tite. Io ho fatto la prima lezione mercoledì prima della maratona di Milano e ho fatto la seconda mercoledì l'altro ieri. Ecco dopo Carlo, la maratona. Ma che cosa hai imparato? Ci racconti che cosa hai imparato? Perché lei già correva e si è avvicinato allo yoga? Sì, io corravo da 4 anni, fatto 3 maratone da amatore, poco sotto le 4 ore. Sì. Io non voglio magari farmi prendere da facili entusiasmi, però io sono partito domenica mattina sotto l'acqua battente e ho migliorato il mio personale correndo in maniera, l'ho scritto anche a Tite, un po' più eretto, un po' più tranquillo. Ho fatto proprio la prima metà e la seconda metà differivano di pochi secondi, un metronomo, e mi sono trovato bene, tanto che sono tornato il mercoledì dopo a fare la lezione per la schiena e per l'umidità e continuerò e lo consiglio. Mi sono avvicinato allo yoga per curiosità e Carlo è stata una bella sorpresa. Che trucco hai dato a Carlo, Tite? Il trucco è stato quello di preparargli il corpo, sì, allungato, aperto e riposato in questo senso, non contratto. Ecco, parliamo dello stretching, perché di stretching è importante non farlo prima di ogni esercizio fisico, ma c'è stretching e stretching, e lo yoga aggiunge qualcosa. Dottor Confalonieri. Sì, diciamo che lo stretching è un intervento però selezionato e settoriale, fondamentale, ma con lo stretching noi lavoriamo sul muscolo e sul tendine fondamentalmente. L'approccio dello yoga, direi che dal punto di vista un po' più scientifico, un po' più razionale del medico sportivo, sì, è importante nel senso che rimette al centro il corpo e quella capacità di ascoltare il corpo che è fondamentale per poi gestirlo in modo corretto. Cioè i grossi rischi che abbiamo nel praticare con troppo entusiasmo uno sport è proprio di non essere capaci di ascoltare il nostro corpo, i deficit eventuali che ha il nostro corpo, e quindi di doverci fermare. Quindi arrivare allo stretching, ma non selezionando l'attenzione su quel settore, ma inserendo quel settore nella globalità della nostra corporeità, può essere una sfida stimolante e interessante. Stimolante, ma mi sembra un po' difficile da raccontare anche in pochi secondi. Iniziamo, perché poi abbiamo i mercati e voglio dare la parola agli ascoltatori. Forse aiutare chi non capisce bene cosa vuol dire ascoltare il corpo, no? Perché lo dite tutti, ma uno dice anche, cosa faccio? Anche il mio maestro dice, beh, adesso basta parlare, bisogna fare, do it. Ma, e quindi ci vuole il sudore delle posizioni, dell'allenamento. Ma l'ascolto del proprio corpo è innanzitutto l'ascolto del proprio respiro. Tutti siamo nati per correre, ma siamo nati anche respirando perfettamente. La domanda classica di chi soprattutto dei runners che approcciano lo yoga è: oddio, io so che non so respirare, questo mi limita nella corsa, ma io sono qui per imparare a respirare, pensando di iniziare subito il settore di yoga, che è vero che esiste, il pranayama, ma che è innanzitutto deve essere creato il settore degli esercizi di respirazione da un corpo ben disposto. Quando un corpo è allungato e aperto può poi respirare tranquillamente. Noi dobbiamo andare ai mercati. Marco, ti fermi ancora un attimo dopo i mercati e il meteo, perché proviamo anche a respirare, non solamente ad ascoltare, ma a respirare nel modo corretto per chi corre e per chi vuole correre come me, che si preparerà alle prossime maratone. Sentiremo subito dopo Mario da Brescia, Filomena da Lecco, 800 24 00 24, mercati, meteo e poi di nuovo insieme. Essere e benessere. C'è un modo giusto di respirare quando si corre? Qual è la corretta frequenza di uscite settimanali di corsa? Per migliorarsi bisogna aumentare i chilometri? Qual è il momento migliore per correre? Se alterno la corsa a tratti di passo, in questi ultimi come devo procedere? Correre fa ingrossare i polpacci? Si parla tanto dello stretching, ma serve davvero? Meglio correre forte o piano? Correre su terreni duri nuoce alle articolazioni? Ritorniamo a parlare di corsa, di maratona. Vogliamo risvegliare un po' il maratoneta che c'è in noi. 800240024. Tite Togni, che qua in studio con me, dice: siamo nati per respirare, sì, perché sennò non potremo vivere, ma anche per correre. Sembra una cosa assolutamente naturale, ma per chi deve iniziare può creare qualche problema, ma anche per chi pratica la corsa spesso si frequenta con piccoli problemi, disagi, piccoli dolori. Intanto abbiamo i nostri ascoltatori che sono in linea con noi all'800240024 e abbiamo Gianluca che ci chiama da Roma. Gianluca, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Lei corre per piacere o per fare tempo? Scorro esclusivamente per piacere. Io devo dire, ho chiamato anche perché ho acceso la radio nel momento in cui c'era la presentazione del libro, ho sentito manager, ho sentito runner. E ha detto sono io. Io sono manager di una grande azienda, sono sparato in giro per l'Italia su treno, aereo, macchina, pochissimo tempo, soprattutto anche per mangiare bene, e quindi anche lì soffro. Sì. E quindi si è buttato sulla corsa, Gianluca. Esatto, bravissima, esatto. Qua c'è Marco Loconte, lei ha sentito appunto, abbiamo citato il suo libro Stregati dalla corsa, dove sì, racconta di suoi colleghi manager che nella corsa proprio hanno trovato un'occasione di benessere e anche di, se vogliamo, una facilitazione nell'affrontare anche gli impegni e lo stress quotidiano. È capitato anche a lei? Molto corretto, sì, è capitato anche a me. In realtà, peraltro, io sono tipo difficile perché sono partito non credendoci. A me non piaceva correre, sì. Ho odiato la corsa fin da bambino, ho fatto tutti gli altri sport tranne che la corsa. Sì. E sono stato trascinato all'età di 45 anni per la prima volta ad andare a correre da alcuni amici e colleghi. Devo dire, all'inizio non mi è piaciuta, però poi ci ha preso gusto, quindi Gianluca, ci ho preso gusto e però ecco, mi sento di dare un consiglio. È questo che volevo chiederle. Mi dica. Siccome non sono uno che fa i tempi, e la domanda sua è molto corretta, perché chi è manager sì, può in alcuni casi, ma raramente, riuscire a pianificare la propria vita, quindi devo dire, io riesco a correre ma nei ritagli o proprio cercandomi i ritagli spasmodicamente. E questo è il primo consiglio che mi sento di dare, di non cedere e cercare sempre quella mezz'ora, 40 minuti che sono appena sufficienti, però giusti secondo me per mantenere un discreto allenamento. E l'altra cosa che mi sento di dire, proprio perché uno se è come me che non fa i tempi e non ricerca la performance, di non esagerare. Di non esagerare, noi abbiamo aperto, lei non era in linea, io ho aperto, non essendo maratoneta, con una raccomandazione: non strafate. Grazie per i suoi consigli. Vogliamo aggiungere, per chi sta praticando, un consiglio da addetto ai lavori? Tite, per non esagerare, soprattutto per prendere confidenza con i limiti del nostro corpo. Molti ascoltatori mi stanno scrivendo, certo, ho il dolore, pubalgia, mal di schiena, e abbiamo anche sentito un ascoltatore che ha fatto delle lezioni con te e si è trovato quasi rinato in un altro corpo. Sì. Possiamo dare delle indicazioni però pratiche? La prima è che prevenire è meglio che curare, quindi lo yoga insegna proprio questo, a preparare il corpo per andare poi a sondare i limiti e fare altro. E l'altro è quello appunto di allenarsi ad ascoltarsi. Cosa vuol dire? Innanzitutto allenarsi ad ascoltare il proprio respiro, che si può fare semplicemente cominciando a mettere, quando non si ha niente da fare, anche per un attimo al semaforo, le mani sull'addome e ascoltare il ritmo del proprio respiro, che proprio per il fatto che siamo nati con questo, dovrebbe essere il ritmo più fisiologico che esista di tutte le nostre azioni. Quindi mano sull'addome, mani sull'addome, mani tutte e due, e ascoltare sia il rumore del respiro dentro di noi, sia il ritmo, quindi l'inspiro e l'espiro, sentire se ci sono delle interruzioni, se ci sono accettarle, non subito rifiutarle, ma riconoscerle, e cercare di sentire che piano piano questi vari riconoscimenti, aggiustamenti, piccoli aggiustamenti, portano a un fluire senza più interruzioni. perché poi sono questi i problemi, nascono quando il respiro si interrompe. Dico sempre il cardiofrequenzimetro nello yoga è il respiro. Marco. Perfetto, no, è proprio questo che è importante sottolineare. Il respiro ci consente di entrare in un'altra dimensione. Ne abbiamo un gran bisogno di uscire da una dimensione stressante di una vita a volte fatta di molti impegni o di preoccupazioni grandi per la mancanza di impegni, visto che la crisi porta molti anche lontano dal lavoro. E da una parte abbiamo questa dinamica qui, poi abbiamo i media, la televisione che ci bombarda di informazioni, siamo oggetto di una catalizzazione di molta tensione. Lavoro è apparentemente tempo libero, ma insomma, certo, siamo al centro di continui sbalzi. Abbiamo bisogno di fuggire, abbiamo bisogno di un'altra dimensione. Il respiro ci consente di andare in un'altra dimensione, la corsa ci porta in altri mondi, anche mentali, e questo è fondamentale per vedere la nostra vita in maniera più vera. Questo è meraviglioso dal punto di vista interiore. Mi piacerebbe però sottolineare anche quello che due runner mi hanno testimoniato, hanno letto il libro e mi hanno raccontato di anche della testimonianza esteriore, cioè si corre in giro, no? Sì. E a volte quello che si vede in giro non è bello, spazzatura, rifiuti. Allora si sono inventati un sito internet, si chiama spazzorunner.it, www.spazzorunners.it, sì, in cui chi corre può postare, può segnalare casi di incuria del territorio, parchi, giardini. Mi piace questo. Ed è fondamentale per migliorare la vita non solo interiore e va bene, ma anche esteriore di tutti. I runner sono dei testimonial della qualità del nostro ambiente ed è opportuno ed è bello, insomma, mettere a fattor comune tutte queste cose. Assolutamente. Allora ringraziamo Marco Loconte per essere stato con noi. Ricordo il suo libro Stregati dalla corsa, edito dal gruppo 24 ore. Grazie Marco, io so che tu devi andare a correre ma a lavorare. Sì, sì, c'è anche l'altra vita. Grazie Marco Loconte. Grazie a voi. E andiamo a Mario da Brescia, l'abbiamo ripescato? Eccomi qua. Eccola Mario, le abbiamo cambiato il nome, le abbiamo fatte aspettare, ma io non so, è proprio... Ho fatto qualche chilometro di corsa. Mi dica allora, il suo intervento? Allora, il mio intervento è questo, innanzitutto stavo salutando Tite, che conosco personalmente molto in gamba, complimenti ovviamente per la trasmissione. Io più che parlare delle mie corse, ho fatto un'ultramaratona recentemente, la mia prima mamma, l'ho fatta proprio per divertirmi senza guardare il tempo. Ho organizzato su un progetto presentato a Brescia l'organizzazione la Corri per Brescia, che è una manifestazione che vuol portare a correre anche chi non fa movimento, a correre e camminare. Quindi invitare tutti a fare movimento sano, popolare, direi più che anarchico, come ha detto prima Marco Loconte, direi un pieno senso di libertà. È molto bello perché soprattutto la gente deve socializzare, quindi non è solo il correre da soli, assolutamente, e anche la cosa importante è vivacizzare un po' la città, perché spesso l'abbiamo abbandonata, l'abbiamo lasciata, quindi ci riappropriamo un po' dal territorio, esatto, del territorio, esatto, esatto, e questa è una manifestazione che va in questo senso, e noi tutti i giovedì da 6 mesi a questa parte organizziamo corse in centro Brescia, proprio nel centro storico. Grazie Mario. Filomena, buongiorno da Lecco, prima delle informazioni sul traffico, buongiorno a lei, grazie per essere intervenuta. Filomena? Buongiorno. Salve, io volevo chiedere un consiglio, perché praticamente sono entrata in un circolo vizioso per cui non riesco a stare senza correre perché ho bisogno di scaricare, però soprattutto quando c'è brutto tempo, sono impegnata con l'università perché comunque ho 22 anni e sto studiando, diventa un problema, nel senso che probabilmente vado in overtraining, non riesco a dormire la notte, sono sempre stanca, però non riesco a fare a meno di correre. Intanto rubiamo questo consiglio di Tite, mani sull'addome, sentiamo il respiro, il ritmo e anche il rumore del respiro. Torniamo subito dopo da Filomena, la musica del respiro, e a proposito di musica, non voglio dirvi altro, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi chi ci ama ci corra dietro. Essere e benessere. stragati dalla corsa, ma anche in crisi per la corsa. Filomena è in linea con noi, dottor Confalonieri. Diamo delle indicazioni pratiche a chi si trova in una situazione di impasse, ma diamo anche dei consigli per chi vuole iniziare. Si inizia dal cammino e poi si va avanti fino a correre per chi lo desidera. Dottore. Molto rapidamente. Consiglio che darei a Filomena è che se siamo in un momento di crisi, di difficoltà, uno stacco, sia pure breve, io lo farei. Molte volte il riposo è il miglior allenamento che esista. Ci si dimentica di questa cosa, quindi magari stare una settimana, 10 giorni, sapendo che in quel momento il non correre è funzionale a migliorare il proprio rapporto con la corsa, e poi quando si riprende, riprendere adeguando l'impegno alle disponibilità che abbiamo durante il giorno. Quindi ci può essere la settimana in cui facciamo i 2 o 3 allenamenti relativamente lunghi, ci può essere la settimana in cui ci ritogliamo i 30-45 minuti quasi tutti i giorni. In questo modo riduciamo il rischio di andare in overtraining. Rispetto all'approccio, era molto interessante anche la telefonata precedente, ecco, non spaventiamoci con questi grandi obiettivi, iniziamo davvero camminando 25-30 minuti, che è alla portata di tutti. Poi passiamo a camminare veloce, è già un secondo step. Dopodiché cominciamo a inserire 1 minuto e mezzo, 2, massimo 3 minuti di corsa ogni 3 minuti di cammino. In questo modo arriveremo naturalmente, con gradualità e senza difficoltà, a correre per 30-45 minuti e potremo già sentirci corridori. Sentite la campanella di Franz Liszt e il piano è quello di Maurizio Baglini, un pianista con la passione per la corsa. Maurizio, benvenuto. Buongiorno a tutti, salve. Maratoneta per passione? Esatto, sì, per passione, perché fa bene, perché è bello, perché condivido poi pienamente tutto quello che avete spiegato perfettamente finora nei vari interventi, insomma, fa parte tutto un po' anche del mio percorso di maratoneta amatoriale, ma diciamo che è un bellissimo hobby che fa bene soprattutto, ecco, il lato intellettuale del mio lavoro, diciamo anche intellettivo, insomma, no? la memoria per un pianista di musica classica, tutti questi sforzi di grande concentrazione, affrontare il pubblico, ne hanno beneficiato pienamente. Maurizio, Tite parlava della musica del respiro. Io penso che forse tu hai più orecchio, essendo musicista, ad ascoltare la musica del tuo respiro, e soprattutto volevo sapere da te se, come abbiamo visto per i manager, preparare un concerto e prepararsi ad una maratona ha dei punti comuni o uno aiuta l'altra, in che modo? Assolutamente sono complementari. Il respiro fa parte della musica. La musica, parlo della musica classica, è fatta da spazio acustico, movimento, ma il respiro non gestito è sinonimo di ansia, quindi se uno ha poi paura del pubblico e non respira bene quando suona in pubblico, un concerto appunto solistico per pianoforte può durare anche 2 ore, insomma 2 ore e un quarto, si trasmette ansia al pubblico anziché trasmettere emozioni, di fatto, che è quello che si dovrebbe fare. Quindi saper gestire il respiro, gestire le proprie risorse, la concentrazione è assolutamente complementare e soprattutto appunto viene nel mio caso coadiuvato dalla passione per la corsa, insomma, che sinceramente è diventata una parte integrante del mio lavoro di pianista. Ma diciamo, tu quando corri ascolti musica? No, io proprio sono il vero runner che ha il piacere di correre in mezzo a ammirare la natura come non la si può ammirare in qualsiasi altro frangente, insomma, in nessun altro frangente. La musica mi rimane dentro la mia testa, spesso magari memorizzo dei pezzi nuovi che sto studiando, e me li memorizzo per mente corro, ma senza ansia. Quindi ecco, questa di nuovo ritorna l'idea che nella corsa, come diceva Marco Loconte, alcune proprio nascono delle idee, si fermano e si concretizzano dei progetti. Sicuramente, sicuramente, questo lo posso confermare al 200%. Maurizio, io ti saluto e ci riascoltiamo un pezzo della Campanella, che tra l'altro è una traccia del tuo ultimo album Rev, pubblicato da Decca. Grazie a Maurizio Baglini per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie a tutti. Abbiamo ancora su questa splendida musica un ascoltatore, 800 24 00 24, che ci chiama da Bergamo, Angelo. Vediamo che cosa ci racconta, se ci dà un consiglio e invece se ha una domanda, un dubbio, una richiesta d'aiuto. Angelo, buongiorno. Una domanda, una richiesta d'aiuto, grazie innanzitutto. Allora, io pesavo a gennaio 92 kg, adesso ne peso 82. Sì. Ho fatto dieta, ho fatto corsa, però ovviamente c'è qualcosa che ho sbagliato, nel senso che correvo e corro tuttora un'ora e un quarto, funziona tutto, ma mi sono strappato, tra virgolette, due volte lo stesso muscolo nel giro di 15 giorni. E quindi? Che devo fare? Dov'è l'errore che ho commesso? Ah, ho eliminato i carboidrati però. Questo... Aiuto il dottor Confalonieri. Aiuto al dottor Confalonieri. Dottor Confalonieri. Beh, diciamo che i problemi possono essere di due tipi. Da un lato, una perdita di peso eccessiva, perché 10 kg in due mesi è un po' troppo, e quindi questo può aver portato a una diminuzione del tono muscolare, quindi a una maggiore fragilità muscolare. Il resto, non aver fatto in modo adeguato la preparazione alla corsa, e quindi lo stretching, lo yoga, tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi. Allora, per oggi è tutto, io saluto il dottor Confalonieri, Tito e Toni, grazie a voi per essere intervenuti, noi ci sentiamo lunedì. Essere e benessere.